Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria tiene sempre banco, e non poteva che essere altrimenti, sul fronte italiano, l'ipotesi di una rimodulazione della pressione fiscale, detto in italiano, insomma, che il governo cerchi di ridurre le tasse, ma all'interno di una tenuta dei conti pubblici. C'è chi lo definisce quasi un ossimoro, visto gli impegni presi dal governo italiano stesso nei confronti dell'Europa, e quindi il deficit a zero nel 2013, sono 40 miliardi in tre anni, e poi la riduzione del debito, che pesano ancora di più. Nel primo caso sono 35-40 miliardi, nel secondo 40-45 miliardi. Comunque l'incontro c'è stato oggi tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il leader, oltre che ministro, della Lega Nord, Umberto Bossi. E come i nostri GR vi hanno già raccontato, Bossi ha dichiarato alla fine, insomma, Tremonti dovrà trovare il modo per ridurre le tasse, ridurre un po' le tasse. Dovremmo stare molto attenti, perché non dobbiamo tenere conto solo dell'Europa, ci sono anche i grandi mercati, Londra, New York, bisogna essere cauti. La riduzione delle tasse va coniugata con il rigore nei conti. Non ci sono molti altri modi per ridurre le tasse se non tenere botta ai conti e ridurre alcuni sprechi. Quindi lì l'appello di Mario Draghi nell'ultima sua relazione come governatore della Banca d'Italia a fare tagli mirati, non tagli orizzontali. Però anche qui sappiamo che i tagli mirati vanno a toccare più interessi costituiti che non tagli orizzontali, e interessi anche di lobby, l'abbiamo raccontato molte volte. Comunque di questo parleremo nella seconda ora del programma. In prima battuta ci occuperemo come sempre dei mercati, ma anche del rapporto Ecomafie. Ogni anno Legambiente ci presenta il rapporto Ecomafie, il giro d'affari miliardario della criminalità organizzata quando si occupa di riciclo, ma non solo, smaltimento di rifiuti, e appunto di questo parleremo in apertura. Ancora ne parleremo di oro, perché è un settore che, anzi, è un metallo che trattiamo solo per i suoi record. E oggi ci sono gli stati generali del comparto orofo di Arezzo, che assieme a Vicenza e Valenza sono i tre grandi d'Italia, il primo lavoratore di oro al mondo. Centinaia di imprenditori, dipendenti del distretto, hanno sfilato con una collana di oro di 1,3 km per rappresentare il legame che li unisce alla città. E dicevo, nonostante il record dell'oro, il fatturato delle imprese orafe, perlomeno in provincia di Arezzo, ma non solo, cala di quasi il 4%, soprattutto calano anche gli occupati e cala anche il numero di imprese. Quindi andremo ad analizzare questo settore in apertura, dopodiché ripeto il business dell'Ecomafia e questa vicenda che si è rivelata vedo già alcuni che vogliono sapere quanto vale il business dell'Ecomafia. Secondo la stima circa 20 miliardi di euro all'anno, suddivisa tra 290 clan, 31.000 illeciti ambientali accertati ogni anno, pensate, sono 84 al giorno, una cosa inaccettabile e indecente, se mi permettete un commento. Dicevo, oltre alle ecomafie e al tema dell'oro, ci occuperemo anche di questa mezza bufala che è arrivata dalla Francia, in cui sembrerebbe che il colosso francese del lusso, sono due, Louis Vuitton, Moët & da una parte e Pinot Printemps dall'altra. Ebbene, Pinot Printemps sembrerebbe interessato a Prada, smentita dallo stesso gruppo francese. Cercheremo di capire se in realtà sotto la cenere si muova qualcosa, oppure si sia trattato solo di una così fuga in avanti giornalistica. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo dalle borse in primo luogo. Borse che vanno moderatamente bene in tutta Europa, più 0,30% a Milano, più 0,50 a Parigi e anche a Francoforte, più 0,30 a Londra, mezzo punto percentuale di rialzo negli Stati Uniti. Ancora l'euro sul dollaro in rafforzamento a quota 1,46,70. Tra i titoli vanno bene a Piazza Affari, soprattutto Intesa San Paolo, più 1,80, Prismian più 1,30, A2A più 1,1, Fondiaria più 1% come Mediolanum e Telecom Italia, e Snam Rete Gas è nel più 0,80, Generali più 0,70 come Mediobanca, e lo 0,60 lo guadagna Unicredit. Popolare di Milano meno 4,20, UbiBanca meno 3,40, Monte dei Paschi meno 2, Fiat meno 1,5, Impregilo meno 1,30, Banco Popolare meno 1%, Tenaris meno 0,80, Comet Fiat Industrial lo 0,70, l'Opea dell'Automatica. Petrolio stabilmente sotto i 100 dollari al barile, a $98,7 a New York, e l'OPEC domani al 99% deciderà di aumentare le quote di produzione. L'associazione dei principali esportatori di petrolio al mondo, infatti, per compensare il calo delle esportazioni di greggio dalla Libia, dovrebbe aumentare la quota complessiva, anche se non si hanno ancora stime precise su questo. Sempre sul fronte dei prezzi delle materie prime, in questo caso per quello che riguarda i generi alimentari, secondo la FAO non si fermerà la corsa dei prezzi fino all'inizio del 2012, anche se la produzione resta abbondante, si legge nell'ultimo rapporto semestrale della FAO, riesce a coprire solo il consumo, e quindi il rapporto tra la marcata riduzione delle giacenze rispetto al modesto incremento produttivo delle principali colture porta a mantenere i prezzi sostenuti. La saga greca, il sirtacchi finanziario greco. Allora, oggi Moody's, l'agenzia di rating, quelle che danno il voto ai paesi, ai debiti dei paesi, dice: attenzione, se allungate le scadenze del debito greco, cioè se invece che rimborsarti il prestito nel 2013 te lo rimborsano nel 2015, di fatto è un fallimento, è un default, significherebbe dichiarare il default. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale dice: l'ipotesi di ristrutturare il debito di Atene è molto pericolosa. E invece però Trichet, il numero uno della Banca Centrale Europea, ha esortato le banche a riscadenziare il debito greco su base volontaria, il che vuol dire acquistare nuovi titoli di Stato greci per rimpiazzare i titoli in scadenza. Dell'Italia volete sapere? Beh, oggi c'è una raccomandazione europea della Commissione Europea che ritiene necessario che l'Italia adotti al più presto nuove misure per affrontare le debolezze strutturali della sua economia, debolezze che la crisi ha evidenziato ed esasperato. Queste debolezze, questi interventi dovrebbero riguardare il funzionamento del mercato del lavoro, una maggiore concorrenza nel mercato dei servizi, e qui c'è tutto il tema delle municipalizzate che fanno concorrenza ai privati, spesso in perdita. Faccio notare che più della metà delle società che sono controllate dai comuni o dalle province o dalle regioni, che gestiscono servizi che potrebbero essere gestiti dai privati, tra l'altro li gestiscono in perdita. E poi rafforzare le politiche di sostegno all'innovazione e alla ricerca, rendere più veloce ed efficace l'utilizzo dei fondi strutturali europei, e qui il Sud Italia e le regioni del Sud hanno delle profonde e gravi responsabilità nella loro incapacità costante di utilizzare appieno tutti i fondi strutturali che vengono messi a disposizione dall'Europa. Vedo che molti vogliono sapere, ma insomma, il vertice Berlusconi-Bossi ha portato una linea guida sulla riduzione del fisco. Allora, noi non diamo giudizi politici, vi dico solo quello che titolano le agenzie. Insomma, nulla di fatto per ora sul fronte dell'alleggerimento del fisco. Se ne riparlerà a settembre, dopo che i conti saranno blindati con la manovra di giugno, e quindi sarà impostata la manovra da 40 miliardi da qua al 2013. Allo studio comunque ci sarebbe un progetto di rimodulare la pressione fiscale a costo zero, ossia alleggerisci le aliquote dei primi due scaglioni IRPEF, e però in compenso aumenti l'IVA. Ricordo che ogni punto percentuale di IVA produce un gettito di 9 miliardi di euro. E poi utilizzare gli introiti della lotta all'evasione per ridurre l'IRAP. Su questo è intervenuto oggi anche il ministro Sacconi, sentiamolo a margine dell'Assemblea Nazionale delle Confcooperative. Il percorso è quello sempre dichiarato, non c'è nessuna novità, quello di riforma fiscale in un quadro di stabilità. E il piano nazionale di riforma è consegnato all'Europa, non c'è nessuna novità. E poi il tema degli accordi del 93. Oggi ha fatto molta notizia l'intervista sul Sole 24 Ore da parte di Luigi Angeletti, che ha annunciato: siamo pronti a disdire gli accordi del 93, quelli che in sostanza prima della riforma del 2009 fissavano le regole della contrattazione e della rappresentanza. Su questo chiaramente molto dura la posizione della CGIL, la Camusso ha detto è un errore disdire gli accordi del 93, positivo invece il giudizio del ministro Sacconi. L'accordo del 93 nasce morto perché irrigidisce quello che era stato straordinariamente utile nel decennio precedente, cioè l'accordo sulla scala mobile dell'84, nel momento in cui bisognava stimolare la produttività e collegare quindi i salari con essa. Mentre invece l'accordo del 93 ha generato bassi salari, bassa produttività, alto costo del lavoro per unità di prodotto. Non ne ha azzeccata una. Allora, dicevamo così, ministro Sacconi, diciamo che ha parlato a margine dell'Assemblea Annuale delle Confcooperative, che nonostante la crisi, le cooperative continuano a incrementare l'occupazione, mettendo a segno nel 2010 un più 3%, diventa un più 5,5% nel biennio, quindi buono il dato del settore delle cooperative. Lo ha segnalato Luigi Marino nella sua relazione all'Assemblea Nazionale della Confederazione. E è stato poi intervistato dal nostro Jacopo Matano, e il presidente Confcooperative ha indicato anche le richieste del settore al governo, ricordando l'importanza della cooperazione nel tessuto produttivo italiano. Noi non chiediamo cose impossibili, il governo come la politica non può dare cose impossibili, come per esempio una drastica riduzione delle tasse che tutti ovviamente su quali tutti sperano e confidano, ma i conti pubblici non lo consentono. Dobbiamo chiedere invece al governo più efficienza nella macchina burocratica, quindi più snellimento. Dobbiamo chiedere una difesa degli interessi italiani in Europa e nel mondo. Dobbiamo fare in modo che siano sostenute le imprese nella crescita e non le imprese perché rimangono come sono. Imprese piccole non servono a questo paese. Molte imprese è un patrimonio, ma tante imprese piccole non sono un bene per la nostra nazione, per il nostro paese. La cooperazione in tutti questi anni, tre secoli di storia, è una forza di coesione, di unità, di integrazione. Sono finiti i tempi in cui una parte della cooperazione era solo alternativa al sistema. La cooperazione è nel sistema, aiuta lo sviluppo del paese indipendentemente dai governi che guidano il paese. Quindi noi difendiamo l'Italia, difendiamo il lavoro italiano, difendiamo i lavoratori italiani. Cerchiamo di rappresentare al meglio i bisogni della nostra società, anche nelle nuove frontiere del welfare, della sanità, delle nuove occupazioni professionali, del lavoro. Addirittura costituiamo ancora banche di credito cooperativo. Questo è il segno di un localismo e di un radicamento territoriale delle cooperative che sono segno nella globalizzazione, credo, di successo, perché coniughiamo il mondo con il locale e solo la cooperazione può fare. Le imprese cooperative non delocalizzano, non chiudono e vanno all'estero, le imprese cooperative rimangono legate al territorio perché vogliono creare occupazione e reddito per le donne e gli uomini di quel territorio. Dobbiamo aiutarle a rimanere tali nella qualità cooperativa, ma anche nell'impresa cooperativa. Quindi buona impresa cooperativa per buon lavoro e buona occupazione. Grazie. Grazie. L'ultima domanda. A questo proposito, il mondo delle cooperative si sta unendo con Cooperativa assieme a LegaCoop. Un'unione storica, una sinergia storica, ma ci saranno delle gelosie? Ma speriamo di no. Abbiamo dato due parole d'ordine che sono gradualità e identità. Gradualità perché non vogliamo fare, come hanno fatto i partiti, delle fusioni a freddo, rapide, veloci, che poi hanno un attimo dopo generato nuovi gruppi dirigenti divisi e anche perdita non indifferente di voti elettorali. Noi vogliamo fare le cose fatte bene, quindi ci siamo dati un timing, un tempo per unificare pian piano le varie strutture, quindi è un'operazione che non si realizza in un mese o in un anno, si realizza in qualche anno, e in questi anni intanto vogliamo mettere insieme procedure, metodi, ragionamenti comuni alle tre centrali cooperative. Poi l'identità, noi non vogliamo fare una centrale cooperativa unica con una identità nuova, ma vogliamo rispettare le identità di partenza. Allora, usiamo Goldfinger per alleggerire un po' il tema, perché quando parliamo di oro parliamo non solo di un metallo pesantissimo, visti i valori attuali, a record storico 1500, volete sapere cosa ha fatto oggi prima di che ne parliamo? Perfetto, 1544,92 dollari l'oncia sui mercati asiatici, un'oncia sono 32 grammi qualcosa. Record storico, ma perché l'Italia è il principale paese al mondo nella lavorazione dell'oro. Il che significa, sapete che noi siamo appassionati di concretezza e cifre, 9.500 imprese, 130.000 addetti tra produzione e distribuzione, oltre che un valore aggiunto enorme. Certo che, ho detto prima al mondo, chiaramente prima in Europa, davanti a noi ci sono come quantità Cina e India, chiedo scusa per il refuso, ma siamo i primi in Europa e dopo l'India e la Cina arriviamo noi. 116 tonnellate di oro lavorate, trasformate diciamo, nel 2010. E sono tre i centri dell'oro in Italia, sono Arezzo, Vicenza e Valenza. Tra l'altro ad Arezzo oggi si sono tenuti gli stati generali del comparto oro forettino, che vogliono dire 1300 imprese quasi attive. Se volete la classifica delle imprese, segue Alessandria, quindi Valenza con 960 imprese e Vicenza con 723. L'export viaggia tranquillamente vicino ai 4 miliardi di euro l'anno, 1,5 miliardi li ha fatti solo Arezzo nel 2010, con un 30% di aumento, tutto derivato dagli ordinativi che arrivano dall'estero, se ho ben capito, ossia queste 70 tonnellate di oro trasformate ad Arezzo nel 2010 hanno avuto un grossissimo flusso verso l'estero. Chiedo conferma al presidente della Consulta Provinciale Orafi di Arezzo, Walter Bondi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. È anche a voi l'export che vi salva? Sì, in questo momento sì, noi a fronte di un mercato interno che ci penalizza di un buon 8% abbiamo tenuta per quanto riguarda l'export. I numeri che lei ha dato prima sono corretti, Arezzo su delle 116 tonnellate di oro lavorato, Arezzo ne lavora 70 e di queste appunto i due terzi sono assolutamente destinati all'estero. Allora, ho già commesso la prima cavolata del giorno, che ho chiamato Goldfinger, la musica che invece abbiamo scelto che era GoldenEye, avete ragione, ci mancherebbe, e quindi a tutti gli appassionati di 007 chiedo bene, basta scrivere al 349-238-6666, è GoldenEye, non è Goldfinger, complimenti anche agli ascoltatori per l'attenzione con cui seguono il programma. Detto ciò, io vedo dei dati un po' strani, meno 8% gli ordinativi nazionali, e però l'export più 30%, mi sa dire quali, che va in linea con quello che vediamo anche nelle vendite al dettaglio, nell'abbigliamento, nell'alimentare, cioè in questo paese non si consuma. Esatto. Mi dice mercati di sbocco? Ma i nostri mercati di sbocco in questo momento sono gli Emirati Arabi Uniti, la Francia e poi ancora gli Stati Uniti, anche se al terzo posto sono stati gli Stati Uniti il nostro primo mercato per tantissimi anni. Oggi siamo penalizzati da un dazio d'ingresso sul prezzo complessivo del 5-6% che altri nostri competitori non hanno, e quindi hanno più facile, anche se anche quel mercato ha avuto delle grosse contrazioni. Per quanto riguarda la tenuta in termini assoluti, questo deriva anche molto dal fatto che il prezzo del metallo rispetto allo scorso anno è cresciuto del 30%, del 31% circa. Nel 2009 era 22 euro per grammo, oggi siamo a 29 circa all'inizio dell'anno. Ecco, prego. Con punte che hanno toccato anche 35 euro grammo. Mi faccia capire una cosa, quando l'oro va a record, 1.540 dollari l'oncia, funziona come per il petrolio, per cui le compagnie petrolifere ci guadagnano di più, c'è niente da fare, perché voi trasformate l'oro, quindi a voi vi costa di più e il ricarico è uguale, diciamo in maniera un po' brutale. Noi purtroppo lavoriamo sul valore aggiunto, il valore aggiunto è la nostra manodopera, quindi la trasformazione. Il prezzo del metallo è quello per tutto il mondo, e quindi l'aumento incide soltanto negativamente per chi va a comprare alla fine. Per noi non è una trasformazione in termini di equivalenza in euro, ma è semplicemente un ricarico, una ricopertura del peso del metallo che abbiamo venduto, quindi per noi non cambia niente. Lei ci ha fatto caso, per inciso, quanti negozi sono apparsi, quanti cartelli sono apparsi in giro per l'Italia compro oro? Se ne sarà accorto? Questa è una bella domanda. No, dico, anche lei ha detto al settore, sì. Se ne sarà accorto o sono io che ho avuto... Io ha detto al settore me ne sono accorto forse prima di altri, anche perché questo rappresenta un grossissimo problema, perché noi ad Arezzo per esempio abbiamo creato il presupposto per cui ci fosse un controllo su questo crescere, nascere come funghi di questi comprooro. Ma direi di più, insomma, si sono anche posizionati in posti strategici, cioè io ne ho visto uno all'interno di un autogrill in autostrada, cioè, comincio a pensare che siano dei meccanismi per ben altro che comprare solo il metallo. Che cosa? Io credo, per esempio, da noi sono stati scoperti ben 70 furti in azienda che poi sono stati praticamente venduti nei comprooro. Mi dica una cosa, io mi rendo conto che, insomma, che lei non fa né l'inquirente né l'analista, però secondo lei il fiorire di questi cartelli compro oro è più dovuto all'oro a 1.540, per cui diventa interessante a un valore più alto vendere la catenina, la collana, quant'altro, o secondo lei è il risultato di una crisi dei consumi? È una crisi generalizzata, per cui oggi le famiglie nella stragrande maggioranza dei casi raramente arrivano alla terza settimana del mese. Vabbè, adesso nella stragrande maggioranza dei casi non lo so, che ci siano difficoltà nei consumi lo vediamo benissimo dai dati aggregati, sì, e da quello però, che ci raccontava anche il numero uno di Coin, che ha detto OVS nel sud, OVS, io lo ripeterò finché c'è sto programma, OVS, catena della fascia medio-bass, Stefano Beraldo ci ha raccontato 2 settimane fa che i dati che loro hanno sulle vendite di OVS al sud sono drammatici. Se c'è qualche politico in ascolto, aprisse le orecchie. Infatti, quindi siccome il potere d'acquisto delle famiglie medie, chiamiamole così, oppure di famiglie con un monoreddito, sono diventate purtroppo una realtà di questo territorio, di questo paese, è molto facile convertire il metallo in euro e quindi avere disponibilità immediata. Infatti, se vedete le pubblicità dei comprooro, dicono contanti subito. Questo è uno dei primi problemi. Il secondo problema, che poi arriva a toccare il settore nello specifico, è che si creano dei mercati paralleli, per cui l'approvvigionamento del metallo, perché poi la trasformazione del metallo usato viene fatta dalle aziende specializzate, viene recuperato il fino viene reimmesso nei mercati. Questo può significare avere dei mercati paralleli, per cui si può trovare metallo in giro a 1 euro, 2 euro sotto il prezzo di... Poi torniamo sul tema dei consumi. Mi dico una cosa, voi avete fatto più 35% verso gli Emirati Arabi. Gli Arabi sono dei noti consumatori e apprezzatori di oro, anche in maniera così stilisticamente alle volte discutibile. Comunque l'America più 26%, Francia più 57%. Ma siccome le percentuali sono a valore... Quanto ha pesato l'aumento del prezzo dell'oro? Cioè, perché voglio dire, dobbiamo fare. Questo è lordo. Levando l'aumento del prezzo dell'oro, a che cifre stiamo? In Intanto le dico che quel dato che lei ha sotto mano è riferito al primo quadrimestre del 2010 sul 2009. Mm. 2009 che aveva avuto in tutti questi paesi una flessione del 28, 25, 21%. Mm. Quindi è evidente che il recupero in termini percentuali è ancora sotto i livelli diciamo del trend tradizionale del nostro settore. Il prezzo del metallo ha pesato tantissimo, cioè in termini di produttività noi siamo in calo, perdiamo un 3-7% circa. Allora, ancora due domande per lei. Una me la giro agli ascoltatori, 349-238-6666, segnalano che in alcuni negozi, Padova, Vicenza, scrivono dal nord-est, soprattutto viene comprato l'oro a 5 euro il grammo. Se uno compra l'oro a 5 euro il grammo, a quanto può rivenderlo? Al prezzo che ne deriva dalla fusione e dal recupero del metallo fino che esiste in quel pezzo. Quindi presumibilmente se uno ha acquistato un pezzo da 10 grammi, recupera 7 grammi e mezzo di oro fino, che è moltiplicato 35 euro a grammo, vedete tranquillamente quanto può ricavarne. No, me li fa il calcolo per favore, così... Allora, cioè, io lo vendo 5 euro al grammo a questi soggetti. Se pesa 10 grammi, prendo 50 euro. Perfetto. In realtà chi lo compra fonde l'oggetto, recupera il metallo, il valore intrinseco è il metallo puro che è dentro quell'oggetto, che essendo 18 carati, cioè 750, su 10 grammi, recupera 7,5 grammi di oro. Ok. Che moltiplicato per 35 fa circa 250-300 euro. Cioè io ci guadagno 50 euro e chi mi fa il comprare ne guadagna 250? Sì. Se lo compra a 5 euro sì. È per questo che noi chiediamo anche al nostro governo una regolamentazione chiara dei prezzi che possiamo recuperare dal metallo usato. Per esempio un borsino del prezzo dell'oro usato sarebbe sì, no, perché è incredibile, cioè 50 euro è strozzinaggio, cioè, se lei mi dà 50 euro per la mia catenina per 10 grammi e io e poi la rivende a 250, qui c'è un ricarico del 400% che neanche i ristoranti sul vino riescono a fare, fermo restando che poi il ristorante ha i costi di gestione, camerieri, cuochi da caricare, mentre quello che fonde l'oro alla fin fine che costi ha. Ho il meteo e la pubblicità, poi vorrei sapere che cosa sta capitando con le banche, perché sono crollati gli affidamenti bancari nel vostro settore, meno 60% negli ultimi 5 anni, da 30 tonnellate a meno di 9 tonnellate affidate. Tra l'altro la Banca d'Italia aveva detto alle banche: non siate così severe quando c'è uno sconfinamento dovuto anche all'aumento del prezzo dell'oro, cercate di capire anche perché uno sconfina. Comunque ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco arriviamo anche alla borsa, che ha chiuso con un più 0,24%. Vorrei concludere sul tema dell'oro, che vedo che interessa moltissimo. Allora, molti ascoltatori hanno scritto che in realtà l'oro viene comprato a 23 euro per grammo, quindi non i 5 grammi. Speriamo che sia così, perché il calcolo che abbiamo fatto adesso con chi rappresenta gli oro fieretini, la consulta provinciale oro di Arezzo, sia Walter Bondi, è che se te lo comprano a 5 euro al grammo, tu praticamente con 10 grammi guadagni 50 euro, lui ne guadagna 250, vista la purezza dell'oro. Allora, mi spiega cosa sta capitando con le banche e poi finiamo sul tema del compra-oro? Il ragionamento sugli affidamenti per quanto riguarda gli orafi è abbastanza complesso, provo a spiegarlo in termini molto pratici. Da 20 anni a questa parte è stato istituito un affidamento in oro che si chiama prestito d'uso. In pratica la banca eroga dei lingotti per la lavorazione che vengono in pratica erogati in affitto alle aziende. Su questi paghiamo sul controvalore un tasso di interesse. Quindi è un affidamento vero e proprio, no? Quindi uno scoperto. Cosa è successo? Negli ultimi tempi l'innalzamento del prezzo del metallo ha fatto sì che le nostre aziende sono uscite quasi tutte dagli affidamenti, cioè hanno superato gli affidamenti in essere. Per i parametri di Basilea lei capisce bene quello che è il problema, cioè io vado fuori dall'affidamento, il mio rating si abbassa. Ah beh certo, non le prestano più. Mi innalzano i tassi di interesse, non solo, ma c'è anche la segnalazione alla centrale rischi, quindi la nostra crisi è sempre negativa. Questo in barba alla direttiva che la Banca d'Italia aveva emanato già nel marzo 2009, dove diceva il metallo va considerato in grammi e non nel controvalore in euro. Questo perché l'innalzamento del prezzo del metallo avrebbe garantito di far rimanere invariato l'affidamento, oppure adeguare automaticamente. Sì, la Banca d'Italia ha invitato le banche ad astenersi dal segnalare la centrale dei rischi gli sconfinamenti del valore degli affidamenti dovuti agli aumenti della quotazione. È stata chiesta anche alle banche l'applicazione della circolare. Lei mi dice che così non è stato. No. Ok, allora segnalo che molti al 349-238-6666 ci dicono chi lo vende a 5 euro o è perché l'ha rubato o è perché è un fesso, l'oro si compra da 18 euro in su e ne compra oro. C'è anche chi dice, ma insomma che demagogia Barisoni, chi è che obbliga a vendere l'oro e chi obbliga a guadagnare? Uno lo fa su base volontaria. Beh, allora se la mettiamo così, perché delle volte ci sono orecchie da mercante, forse non ci rendiamo conto di un dato più complessivo. Dato di marzo sulle vendite al dettaglio, meno 2% al lordo dell'inflazione, che vuol dire meno 5% con l'inflazione. I consumi, le vendite, tra cui anche il settore alimentare, meno 2,5% al lordo dell'inflazione, siamo a un meno 5%. E vi faccio riascoltare cosa ha detto il numero uno di Coin, OVS e UPIM, Stefano Beraldo, a domanda come vanno i consumi. Ora, OVS vende, per chi non lo sapesse, in una fascia che è simile a quella di Zara e di H&M, i negozi sono forse un po' più belli, ma insomma la fascia medio-bassa, i prodotti che costano poco per l'abbigliamento, non Parada, di cui parleremo tra un attimo. Sentiamo Beraldo su questo. Certamente riscontriamo una situazione di consumi molto, molto ancora fragile. Non vediamo segni di ripresa, con alcune debolezze in particolare a livello geografico in Sicilia, dove sembra che viviamo un'Italia a due velocità, ormai da due anni di fila. Il sud Italia sta facendo molta fatica, la Sicilia, certe aree della Campania, in particolare della Puglia, della Calabria, stanno facendo molta più fatica dal resto d'Italia. E lo dice chi fa largo consumo a basso prezzo. Grazie, grazie Walter Bondi, presidente del Consiglio Provinciale Orafi di Arezzo. Ti ringrazio, mi saluta? No? Sì, arrivederci, grazie, Bondi, arrivederci. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci. Teniamo questa base di Golden Eye, ma in più Golden Finger per tutti gli appassionati di Ian Fleming, per arrivare alla borsa, più 0,24%. A Milano più 0,26% a Francoforte, più 0,22% a Parigi, più 0,13% a Londra. Andrea Fontana, lanciato come uno 007 della borsa, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora Andrea, in una battuta, oggi due cose molto diverse sul fronte bancario. Banca Popolare di Milano meno 4,30%, UbiBanca meno 3,1%. E anche Monte dei Paschi soffre meno 1,60%, Intesa San Paolo di nuovo sugli scudi più 1,90%. Andrea. Beh, l'effetto di chi l'aumento di capitale lo deve ancora fare o lo sta facendo e di chi invece ne ha completato una fase con buoni risultati, almeno questo dicono i manager. Stiamo parlando di Intesa San Paolo, è uscita dalla fase di negoziazione dei diritti all'aumento la scorsa settimana e già venerdì ne aveva risentito positivamente e oggi è stata ben comprata, frutto di un buon umore del mercato sui titoli dei bancari diciamo più importanti e più consistenti, quello di Intesa San Paolo più 2%, Unicredit anche bene più 0,6%. Faticano invece i titoli degli istituti che l'aumento di capitale lo devono ancora fare, lo hanno appena iniziato. Per Banca Popolare di Milano c'è anche un discorso diverso, l'istituto a fine giugno delibererà, l'assemblea degli azionisti delibererà un aumento di capitale da 1,2 miliardi, ma oggi l'attenzione di tutti sono sui rilievi di Banca d'Italia in merito alle esposizioni, agli incassi incagli e le sofferenze dell'istituto. È in corso ancora un lungo consiglio di amministrazione di Piazza Meda per le risposte ai rilievi di Banca Italia, ma il mercato insomma ha espresso un po' di timore. Per quanto riguarda UbiBanca, è iniziato ieri l'aumento di capitale da 1 miliardo, Monte dei Paschi ha approvato invece ieri la ricapitalizzazione da 2 miliardi e il titolo ne ha sofferto perdendo l'1,65%. Traffico e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare la borsa. Allora, Fondiari Assai, ieri sera Peluso, nuovo direttore generale, e anche T-Media rispetto a Mediaset, in estrema sintesi, Andrea. Per Fondiari Assai hai detto tu, certamente il cambio della guardia, l'arrivo di un nuovo manager, peraltro annunciato da tempo, da fiducia al mercato, un manager ex Unicredit che sarà chiamato diciamo, a guidare un po' la ristrutturazione, la riorganizzazione del gruppo assicurativo della famiglia Ligresti. Per quanto riguarda invece Telecom Italia Media, non si è spenta, anzi si è accelerato la speculazione sul titolo, effetto Santoro, dice qualcuno, per il possibile arrivo del conduttore televisivo alla 7, dall'altro canto ancora le indiscrezioni che tengono banco sull'arrivo di un nuovo socio di riferimento, sì. De Benedetti, lui dice fantasie, fatto sta che Telecom Italia Media ha guadagnato il 18% e gruppo editoriale L'Espresso, appunto di Carlo De Benedetti, ha guadagnato il 6%. È verissimo, e Mediaset continua a calare, ormai a 3,53 euro. Adesso arriviamo anche al settore della moda, perché prima ancora che Prada inizi, si collochi a Hong Kong, è già diventata preda. Allora mi collego con Parigi, la presunta preda Prada da parte di uno dei due colossi francesi del lusso, in questo caso non è Louis Vuitton, Moët & Cie, che si è comprato Bulgari, ma sarebbe dovuto essere, e uso il condizionale, Pinot Printemp. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, è una bufala, e questo ci siamo arrivati anche noi, Marco, non ti abbiamo chiamato solo per questo, però vorrei capire come facciamo a essere così sicuri che è una bufala, quali sono i piani di sviluppo di Pinot Printemps, perché tutto il mercato si è mosso molto su questa idea, ecco i francesi dopo Bulgari vogliono Prada e forse anche Armani, scriveva oggi la Tribune. Marco. Ma sai, una bufala, tutto può succedere in questo pazzo mondo del lusso e della moda. L'ipotesi Prada è un'ipotesi che sembra molto poco logica, molto poco razionale rispetto alla strategia di acquisizioni più volte annunciata, spiegata e ribadita da François-Henri Pinault. Lui ha sempre detto siamo alla ricerca di aziende piccole o medie, molto forti nel loro segmento di mercato con delle potenzialità di crescita molto rapide. Il caso classico è l'ultima acquisizione che ha fatto Pinault un mese fa con la californiana Volcom, 600 milioni di dollari, un'azienda relativamente piccola ma molto forte nella sua fascia di mercato, quella del surf, dello snowboard, dello skateboard, con delle forti potenzialità di sviluppo. Ha sempre escluso grandi acquisizioni, quindi sicuramente non Prada, ma direi neppure Hugo Boss, neppure Burberry, neppure Ralph Lauren, neppure Armani, peraltro appunto la Tribune fa un lungo elenco, come dire, tutto e niente, e ha sempre escluso anche aziende che siano concorrenziali e non complementari rispetto alle attività che già controlla PPR. Nel caso specifico Prada è un'azienda in diretta concorrenza con Gucci e quindi francamente sembra veramente una voce, niente più che una voce raccolta in un corridoio. Ecco, e anche in malo modo, perché come tu hai fatto notare, insomma, l'articolo è tutto e niente, perché si cita oltre a Prada anche Hugo Boss, Burberry, Armani, voglio dire, manca poco altro, abbiamo fatto tutta via Monte Napoleone. Esatto. Adesso mi sembra molto più interessante il prossimo, adesso sarebbe altro, ripeto. Ma che un articolo così tutto, so scriverlo anch'io, cioè sparare nel mucchio. Esatto, certo che uno può, tutto quello che è teoricamente acquisibile Può essere anche l'alimentarista sotto casa in vendita, va bene. Mi sembra invece che l'ipotesi, per dire, come il latte di cui si è parlato settimane scorse, per esempio, è un'ipotesi molto più logica per un gruppo come il PPR. Peraltro Pinot ha sempre detto che la fascia, il segmento di mercato in cui loro devono rafforzarsi è quello dell'orologeria, della gioielleria, dove loro sono presenti con Boucheron nella fascia molto alta di mercato, e sicuramente gli manca qualcosa nella fascia un pochino sotto. Sì, e hanno i concorrenti di Louis Vuitton, Moët Hennessy, che sono comprati bulgari. Grazie a Marco Mossanet per averci chiarito in maniera, diciamo, molto puntuale perché ci sono tutti gli elementi per una bufala. Tra l'altro il gruppo guidato da François-Henri Pinot ha già smentito. Andrea Fontana, resta con noi perché vorrei concludere ancora la borsa con altri 2/3 titoli dopo il GR, e parleremo anche di ecomafie e di questo incontro tra Bossi e Berlusconi. Secondo alcuni ha partorito un timido topolino, secondo altri invece c'è stato un impegno a ridurre le tasse ma mantenendo i conti in ordine. Ci risentiamo dopo il GR. 349-238-6666 per gli sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'approfondimento sui mercati con Andrea Fontana, chiarito anche quello che è successo alle banche oggi, al di là di Intesa, negative tutte le altre, e su Fondiere Assai e su T-Media, che tra l'altro Telecom Italia Media è praticamente uno dei migliori titoli in assoluto, più 17% oggi. L'arrivo di Santoro pesa sul titolo in senso positivo. Vorrei ancora capire su Fiat, Andrea. Sì, Fiat una giornata di realizzi, di vendite, si era mossa bene nei giorni scorsi, oggi ha perso il 2%. In generale dobbiamo dire che nelle ultime settimane Fiat dal punto di vista tecnico non riesce a schiodarsi dall'area che va dai 7 euro ai 7,4-7,5, per cui ieri aveva raggiunto i 7,4 euro, oggi ha cercato di forzare quota 7,5, ma lì sono scattate vendite tecniche che hanno poi portato alla vendita sul titolo, e gli è andata abbastanza dietro anche Fiat Industrial, che ha perso l'1,1% chiudendo sui 9 euro esatti. La vicenda Nokia, ossia l'agenzia di rating dai voti Fitch, ha tagliato il voto sul debito di Nokia a BBB-, siamo un gradino sopra il livello junk, spazzatura. Effetti su Estima Electronics e settore? Ma in generale il settore tecnologico è stato uno di quelli più penalizzati oggi, ha perso quasi lo 0,5% in Europa, mentre per esempio un settore, diciamo, limitrofo, che è quello delle telecomunicazioni, ha guadagnato lo 0,1%, e ST ne ha risentito, ha perso anch'essa lo 0,5%, quindi non un effetto pesante, ma sicuramente, insomma, un certo malumore sul settore ultimamente Nokia l'ha portato, ricordiamo anche i tagli ai target la scorsa settimana. Grazie Andrea Fontana di Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso parliamo invece di un settore, purtroppo, che non conosce crisi. Mi riferisco, come già anticipato anche dal GR, al business delle cosiddette ecomafie. €20 miliardi di euro l'anno, per la precisione 19 miliardi 300 milioni, nel 2010 una torta illegale distribuita tra 290 clan del paese, 31.000 illeciti ambientali accertati ogni anno, 84 illeciti ambientali al giorno, 3 illeciti e mezzo ogni ora, con un aumento dell'8% rispetto al 2009. Illeciti compiuti in gran parte al sud, ma anche con la complicità di alcuni imprenditori del nord. Questo è il rapporto Ecomafia 2011 di Legambiente. Praticamente i rifiuti, se messi tutti in fila, i rifiuti sequestrati nelle inchieste per traffico illecito di rifiuti, spesso tossici, sarebbero 2 milioni di tonnellate, cioè una distanza di 1100 km. Immaginate un'unica autostrada di rifiuti, l'autostrada del sole, che va da Milano a Roma. Questo è l'ammontare solo dei sequestri. Anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato oggi alla presentazione della 18ª edizione di Ecomafia, ha detto: serve una maggiore vigilanza, ma tutte le cifre sono in aumento i clan coinvolti, i clan camorristici, ma non solo, 290, 20 in più rispetto al 2009, in aumento i reati, appunto, e le tonnellate di rifiuti pericolosi sequestrati. I proventi arrivano dallo smaltimento rifiuti 7 miliardi, dal racket di animali 3 miliardi, dall'abusivismo edilizio 2 miliardi, sono 26.000 le case abusive, 18.000 costruzioni ex novo, 540 ettari cementificati, poi c'è il ciclo del cemento e l'archeomafie. Regioni più colpite: la Campania, che da sola ha il 12,5% di tutti i reati, poi Calabria, Sicilia e Puglia. Tutte queste regioni del sud assieme fanno il 45% dei reati di ecomafia, ma aumentano anche nel nord-ovest, al 12%, trainati dalla Lombardia. Sebastiano Venneri, vicepresidente di Lega Ambiente, buonasera. Buonasera, ben trovati. Allora, al di là di ogni retorica, bisogna far di più, mi può dire una cosa banale? Questo aumento dei sequestri è un buon segnale, perché vuol dire che se ne scoprono di più, oppure il contrasto è ancora una goccia nel mare? No, sicuramente la prima eventualità, nel senso che le cifre sono in aumento, ma sono in aumento anche perché c'è un'efficace azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine e delle procure in giro per l'Italia, che insomma viaggiano a ritmi significativi, particolarmente consistenti. Quest'anno è stato l'anno peraltro anche del boom delle inchieste sui rifiuti, ce ne sono state 29 in giro per le procure italiane, che hanno portato all'arresto di oltre 60 persone, insomma è notizia di oggi, peraltro l'arresto del presidente di una nota azienda anche per illecito combustione nell'inceneritore dell'azienda di sostanze che non dovevano essere incenerite. Quindi diciamo c'è un'attività di contrasto importante, significativa, che naturalmente dal nostro punto di vista deve essere sempre migliorata. Noi sono anni che diciamo per esempio di inserire i reati ambientali nel codice penale, perché sarebbe un segnale importante dal punto di vista normativo, che potrebbe fare passi da gigante nella lotta contro le ecomafie. Sì, io ho fatto l'esempio di Milano-Roma, andata e ritorno, sono 1100 km circa, quindi dovremmo starci, se no c'è chi suggerisce in un'unica tratta da Milano fino a Reggio Calabria. L'ammontare dei rifiuti sequestrati, dei sequestri, cioè i 2 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi sequestrati, sono rifiuti pericolosi, ricordo. Mi dica una cosa, chi se ne avvantaggia di più, le mafie, e su questo non ci sono dubbi, e poi? Le mafie, diciamo che nel periodo di crisi, oggi c'era la vicepresidente di Confindustria, peraltro, la Cristiana Coppola, che ci segue molto da vicino in questa dura battaglia, e che evidenziava come l'aumento del fatturato delle ecomafie sia anche funzione della crisi economica, cioè in situazioni di crisi economica le ecomafie guadagnano di più, perché evidentemente le aziende, alcune aziende ovviamente, trovano più... Ma è vero che le sanzioni sono basse, 2.000-3.000 euro? Sì, ecco, è quello che dicevo, mentre per il traffico di rifiuti c'è un reato previsto nel nostro ordinamento, per i cosiddetti delitti ambientali il reato non è un reato penale, è un reato amministrativo. Per cui 2-3 mila euro non se la cava per un versamento, per uno sversamento illecito. Ma guardi che non c'è solamente un problema di quantità e quindi di multa eccetera, è che se io rischio una multa, la procura che indaga su di me ha meno strumenti. Sì, no, questo è chiaro, se è un reato nel civile e non nel penale, siamo d'accordo, no, ma è anche la multa prevista che è un po' ridicola. Questa è una delle riforme a costo zero, fate una bella riforma della legge, in questo caso sui reati ecologici, perché oltre che creare un danno anche alla salute e un danno ambientale, crea un danno all'intero paese, perché poi il territorio distrutto difficilmente viene recuperato, e Dio sa quanto questo paese ha bisogno di puntare anche sul suo territorio come capacità di attrarre turisti e quant'altro. Poi è inutile che facciamo i convegni su questo se poi aumentano i reati e sono puniti così poco. Avete ragione a ricordare che oggi è stato arrestato su richiesta della DDA di Milano Angelo Dario Scotti, vicepresidente del CDA di Riso Scotti Energia, e amministratore delegato di Risoscotto S.p.A. nell'ambito dell'inchiesta su un traffico illecito di rifiuti. L'ordinanza riguarda altre tre persone emesse dal GIP di Milano, Stefania Donadeo. Oltre che mettere in onda il suo appello affinché si riformi la legge, vengano puniti anche con sanzioni penali gli sversamenti, altro non so che fare. Le auguro in bocca al lupo, lo auguro all'intero paese, sperando l'anno prossimo, Venneri, di poter commentare dati in calo. Grazie, grazie comunque al vicepresidente di Lega Ambiente. Grazie a voi. Adesso c'è il traffico, poi l'ultimo tema, l'incontro Berlusconi-Bossi di oggi sul fisco, di ieri, scusatemi, sul fisco, un commento era già presente oggi su Sole 24 Ore, il topolino nato ad Arcore, lo ha scritto Stefano Folli, commentatore, editorialista di Sole 24 Ore. Stefano, buonasera. Buonasera. Il traffico e poi vediamo perché questo topolino, è con un giudizio anche abbastanza caustico, netto. Il tuo, dopo il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Stefano Folli, oggi su Sole 24 Ore due cose importanti, noi l'abbiamo già ricordata, ed è l'intervista a Luigi Angeletti che dice possiamo anche rinunciare agli accordi del 93, ne abbiamo parlato in apertura anche sulle reazioni, abbiamo sentito il ministro Sacconi. L'altro è il punto di Stefano Folli che titola Il topolino nato ad Arcore. E cito un passaggio, Stefano. Dici: le cosiddette pressioni di Berlusconi sul suo ministro, sottinteso Tremonti, sono più immaginarie che reali. Qualche battuta con i giornalisti o poco più. Le risorse finanziarie sono quelle che sono, come ormai sappiamo quasi tutti. Resta da capire cosa Bossi dirà al raduno di Pontida fra poco più di 10 giorni. Mi sembra che insomma il tuo giudizio sia abbastanza inequivocabile, al di là delle dichiarazioni mediatiche sulle tasse non arriverà molto, no, lo dico perché oggi abbiamo visto qualche dichiarazione, ma forse ridurremo un po' l'IRPEF, aumenteremo un po' i primi due scaglioni IRPEF, aumenteremo il gettito IVA dell'1%, cioè, quindi tu non credi alla rimodulazione delle aliquote? No, io non credo a cose che siano tali da colpire più di tanto l'attenzione dell'opinione pubblica. Se queste operazioni vogliono essere un recupero di consenso da parte del centrodestra dopo le vicende amministrative, i problemi che sono emersi, non mi sembra che ci siano le risorse per attuare questo. Può essere che ci sia la possibilità di fare qualche piccolo intervento, ma insomma molto ridotto. E oggi la Commissione europea è stata piuttosto esplicita al riguardo, no? L'Italia deve stare molto attenta a controllare i suoi conti pubblici, a combattere il deficit e il debito, quindi da questo punto di vista mi sembra che Tremonti, nel momento in cui anche nel vertice ha ottenuto che entro il 2014 si avrà il pareggio di bilancio, secondo l'impegno preso dall'Italia, beh, su questo diciamo è un traguardo tale da impedire delle digressioni nel senso di abbassare le tasse. Mi sembra molto difficile che si possa ottenere il pareggio di bilancio e l'abbassamento delle tasse in un modo sensibile. Ma non ci stiamo arrendendo tutti all'idea che si possano invece fare dei tagli mirati, come chiedeva Draghi, e quindi andare a tagliare, a ridurre la spesa pubblica laddove è veramente improduttivo o è frutto di clientele, di consulenze, e in questo modo recuperare qualcosa per magari misure a favore delle imprese, del cuneo fiscale dei lavoratori soprattutto? Sarebbe magnifico, sarebbe la cosa che tutti auspichiamo, e purtroppo questi anni, perché insomma, si tratta di vicende che durano da anni, no? Questo dibattito non è che nasce oggi, dimostrano che la politica ha enormi difficoltà ad affrontare un tema di questo genere, perché tagliare la spesa, nel senso che dici tu, significa avere anche il coraggio di affondare il bisturi in quelle che sono delle corporazioni elettorali importanti, finché si può farlo diciamo a carico delle corporazioni della parte opposta, no? degli avversari politici, magari si riesce, ma qui si tratterebbe di affondare il bisturi in maniera veramente ampia e per rimettere in sesto un paese che… Insomma, mi sembra che la classe politica da questo punto di vista è piuttosto deludente e non riesce ad avere questo colpo d'ala. Non credo che le cose potranno cambiare in maniera sensibile di qui ai prossimi mesi. Allora, cosa dovremmo attenderci nei prossimi mesi? Perché noi di fisco ci occupiamo settimanalmente almeno. E quindi gli imprenditori e i lavoratori chiedono soprattutto una riduzione del carico fiscale sul lavoratore, in modo che possa guadagnare qualcosa in più senza che questo costi di più al datore di lavoro, e far ripartire anche i consumi. C'è chi dice andate a scovare l'evasione del corredittometro, ma insomma il tema sarà eminentemente politico, perché tu ricordavi nel tuo pezzo oggi, nel tuo fondo, che insomma fra 10 giorni c'è Pontida, Bossi dovrà dire qualcosa. Ok, è arrivato un accordo bipartisan, una richiesta a Equitalia di essere più flessibile nelle esecuzioni, come se l'unico problema fosse Equitalia in questo paese. Ma insomma, ci sarà un tentativo di metterci una pezza mediatica, ma nulla di più? Guarda, sul piano fiscale, torno a dirti, se si tratta di immaginare nei prossimi più che giorni, mesi, qualche piccolo intervento, non lo posso escludere. Se si tratta di immaginare interventi volti a ridisegnare il fisco in una forma totalmente innovativa e direi quasi tra virgolette rivoluzionaria, lo escluderei. Quello che cosa diranno a Pontida? Ma a Pontida probabilmente diranno delle cose abbastanza, diciamo così, mediaticamente scintillanti, ma di poca sostanza. Per esempio, adesso c'è questa iniziativa per una proposta di legge popolare per il trasferimento dei ministeri al nord, raccogliere le firme per proporre al Parlamento di trasferire i ministeri al nord. Ecco, questo dimostra, il solo fatto di aver concepito questa iniziativa dimostra che non si ha granché da spendere sugli altri terreni, perché se si avesse in mano qualche carta importante sul piano fiscale, sul piano, si parla di una riforma fiscale sufficiente per spingere i consumi, quindi qualcosa di molto serio, se si avesse in mano qualcosa del genere non ci si baloccherebbe con un'idea abbastanza mediocre come una legge di iniziativa popolare per, sì, che, su cui i risparmi sono tutti da vedere, perché io lo voglio ancora vedere il film in cui i dipendenti dei ministeri romani si trasferiscono a Milano e ma non si farà nemmeno questo, cioè non si farà mai. Naturalmente, però serve per dare un po' di fumo negli occhi, per dire a Pontida che c'è una grande iniziativa in corso, perché come sai meglio di me, quando il problema principale per una forza politica è di non sapere cosa dire per motivare la base, per i militanti, questo è il problema. Poi un conto è dire qualcosa di motivante, un conto poi è realizzarlo, quello è un altro piano ancora, ma intanto occorrerebbe avere la possibilità di dire qualche cosa per non mandar via la gente delusa. Ultima domanda che ho per te, intanto ci chiedono gli ascoltatori quando parleremo del referendum. Il referendum sull'acqua lo facciamo domani, ve l'avevo già annunciato, per cui facciamo domani la puntata sul referendum sull'acqua. Quello sul nucleare ne abbiamo parlato decine di volte, non so più cosa dire sul nucleare, ma sull'acqua sì, avremo ospiti a favore e contro. Chiaramente, ultima domanda, Stefano Folli, sì. In sostanza ha vinto Tremonti. Sì, ha vinto Tremonti perché non c'è mai stata una vera partita, ripeto, non c'è una linea alternativa in questo momento, se ci fosse e fosse quella che piace a noi, cioè spingere la crescita con delle iniziative sensate e vigorose, noi saremmo entusiasti, ma siccome questa linea non c'è, o perlomeno se esiste non ha una massa critica politica che la sostiene, è chiaro che Tremonti ha facile gioco, vince perché è l'unico che può portare che cosa? Il pareggio di bilancio e il rigore nel controllo dei conti, che è quello che interessa all'Europa. E rispetto a questo sia Berlusconi che Bossi non è che abbiano granché da dire, ecco, possono lamentarsi. Ma dicevamo dopo l'amministrativa come una battuta che qualunque attacco venisse fatto a Tremonti, poi esce il giorno dopo Standard & Poor's, dice che mette sotto osservazione il nostro debito, certo. Lo abbassa, Tremonti va al Consiglio dei Ministri con l'agenzia di rating, che dice, beh, volete che i tassi di interesse salgano al 6-7%, e la discussione politica è chiusa. Grazie a Stefano Folli per la chiarezza che lo contraddistingue. Da Sebastiano Barigioni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani con un'altra puntata dalle 17 in poi di Focus Economia, parleremo anche del referendum sull'acqua. Intanto e per ora tutti buonasera. Radio 24, la passione si sente.